Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Se vi dovessi dire leopardi, a che cosa pensereste? Beh, sicuramente pensereste agli anni del liceo, agli anni in cui abbiamo studiato questo poeta, e vengono alla mente molti luoghi comuni. Innanzitutto era bruttino, era gobbo, ma soprattutto il pessimismo leopardiano. Noi siamo qui invece oggi per sfatare alcuni di questi miti con un libro. Il libro si intitola L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, scritto da Alessandro D'Avenia, pubblicato da Mondadori. Alessandro D'Avenia è uno scrittore molto noto, soprattutto fra i giovani, ma non solo. Ricordiamo la sua opera prima, Bianca come il latte, Rossa come il sangue. Poi c'erano stati altri romanzi come Cosa che nessuno sa e Ciò che inferno non è. Alessandro D'Avenia è anche un insegnante al liceo di lettere, quindi, come dire, parla a ragion veduta. Alessandro, tu hai deciso di scrivere questo romanzo dedicato a Leopardi, e l'hai scritto in una forma particolare, cioè tu scrivi sostanzialmente delle lettere a tale signor Giacomo, prendendo alcuni aspetti fondamentali della vita, per esempio l'adolescenza, alcuni passaggi fondamentali dell'esistenza umana. Parli con Giacomo Leopardi cercando di capire attraverso la sua opera alcune cose, appunto, che tutti noi ci domandiamo. Perché hai deciso di fare questo meccanismo epistolare? Ma semplicemente perché il rapporto che abitualmente intrattengo con gli autori che amo. Noi purtroppo... Cioè, tu parli con gli scrittori che ami? Beh, loro parlano alla mia vita interiore, quindi quello che succede è una forma di dialogo. A me sta un po' stretta, ne sono anche un po' stufo, questa visione a volte dello studio della letteratura a scuola, in cui noi tiriamo fuori da una specie di freezer gli autori, per un attimo li riportiamo in vita, ci facciamo dire due cose da loro e poi li rimettiamo nel freezer. Invece a me piace pensare che un poeta, se è stato grande, ci serva a vivere meglio la vita di tutti i giorni. E Leopardi ha fatto questo con me da quando ho 17 anni, che è stato il momento in cui l'ho incontrato. Tu dicevi prima che l'autore che incontriamo proprio nel pieno dei tormenti della gioventù, soprattutto perché è l'autore con cui si comincia l'anno della maturità, quindi in qualche maniera una specie di patrono della grande tappa di passaggio. Ecco, io amavo più Foscolo, ma insomma probabilmente ero l'unica in classe ad amare, a voler portare all'esame di quinto superiore appunto Foscolo invece di Leopardi. A un certo punto in questo libro così epistolare tu dici che spesso quando devi iniziare a dire ai tuoi studenti: bene, adesso iniziamo a parlare di Leopardi, i tuoi studenti ogni tanto ti guardano e pensano, o te lo dicono proprio: no, quello sfigato. Insomma, ci sono molti luoghi comuni riguardo Leopardi. Sì, purtroppo luoghi comuni che noi insegnanti a volte abbiamo contribuito a creare, sì, no? Eh? Perché dobbiamo un po' semplificare, abbiamo quest'ansia del programma, di portare a casa più autori possibili. Ecco, se noi ci fermassimo un attimo e decidessimo che invece vale la pena dedicare tutto il tempo che serve per entrare nel segreto, nel mistero di un grande autore, del più grande poeta moderno italiano, forse gli restituiremmo quello che gli è dovuto. Certo, dire che è stato un pessimista, che è passato dal pessimismo soggettivo, storico, cosmico, e dire anche le date, poi serve, funzionale all'interrogazione, perché se sai quelle quattro cosette, l'interrogazione è andata. Sì, però secondo me non restituisce l'idea vera e intima della poesia, anche perché io, leggendo il tuo libro, ho avuto un'immagine di Leopardi molto diversa da quella che mi avevano insegnato al liceo, cioè un uomo che... di passione, insomma, di quasi di ricerca della felicità, anche di volontà di cambiare la sua vita. Proprio per questo il titolo del libro viene fuori da un aggettivo che Leopardi usa nelle sue poesie in maniera straordinaria. Lui usa frale perché la parola fragile, essendo sdrucciola, non entra bene nell'endecasillabo, e quindi usa la versione poetica, e la usa proprio nel Canto notturno del pastore errante, in cui fa dire al pastore errante: questo esser mio frale, cioè riconosce nell'identità umana, nel modo di essere dell'uomo, una fragilità. E lo sta dicendo un ragazzo confinato alla periferia dello Stato Pontificio all'inizio dell'Ottocento, che poteva avere ogni alibi per starsene chiuso in casa e accontentarsi di una vita che lo scorticò un giorno dopo l'altro, togliendogli tutto. Invece no. Lui, di fronte a questa vita che lo scorticava, reagì con una ricerca della felicità ancora più forte, ed ecco perché si leva una voce da quell'angolino dello Stato Pontificio del più grande poeta moderno. Siamo ancora qui a parlarne dei suoi contemporanei. Poi, periodicamente Leopardi, insomma, ritorna, c'è un film, c'è un libro, qualcosa. Il tuo è un libro però che prende molto proprio perché restituisce un'immagine diversa di quella che generalmente abbiamo. A proposito del pessimismo, tu nel capitolo Riparare l'infinito scrivi: caro Giacomo, perché appunto ti rivolgi sempre a lui, si dice che la differenza fra un ottimista e un pessimista consista nel fatto che il secondo è meglio informato del primo. Nel tuo caso è così, proprio per la tua ricerca inesausta del vero. Ma il pessimismo non si attaglia a uno che continua a lottare benché tutto attorno a lui consigli la ritirata. Insomma, era un guerriero. Era proprio un guerriero. Tu dicevi prima che questo Leopardi che torna, io correggerei, è un Leopardi che non se n'è mai andato. Ah, ok. Lui voleva scrivere, mi sono imbattuto in questa nota che mi ha entusiasmato, voleva scrivere un'opera intitolata Lettera a un giovane del XX secolo. Che poi non ha scritto. Che poi non ha scritto perché non ha fatto in tempo. E allora io mi sono detto, ma non sarà che questo ragazzo aveva già intuito che le cose che avremmo perso, come sa fare la grande poesia, si sarebbero rivelate in maniera scoperta solo un bel po' di anni dopo, e quindi lui sapeva che la sua resistenza sarebbe stata più lunga di quella di, appunto, di quello della fortuna che gli tributarono i suoi contemporanei, che lo soprannominavano il ranocchio, come dei bulletti, sì, delle medie, no? Eppure di questi signori noi non sappiamo niente. Di Leopardi siamo qui a parlare proprio perché è un uomo che, di fronte al notturno della vita, tutti conosciamo i notturni leopardiani, ha sempre cercato quella luce che salva, e questa è la cosa che mi ha sempre entusiasmato di lui. Sul tutti conosciamo non lo so, secondo me qualcuno dovrebbe fare una ripetizione, me compresa. Però tu apri questo libro dicendo, fra le altre cose, mi sembra che stiamo dimenticando l'arte di essere felici e che quando lo siamo, per paura che lo stato di grazia sia un'illusione, lo condanniamo ad esaurirsi, come un giardiniere che non si fida del seme di rosa a causa della sua piccolezza e fragilità e per questo decide di non curarlo. Insomma, se Leopardi avesse scritto quella famosa lettera a un ragazzo del XX secolo, gli avrebbe detto di ricercare la felicità e in che modo? Leopardi è uno dei più attenti scienziati della parola per ciò che riguarda proprio l'età giovanile. Proprio perché in età giovanile a lui fu tolto tutto quello in cui sperava, si dovette andare a cercare la felicità con gli interessi. Qual era la forza, l'elemento che lui diceva non può perdere un giovane? Ed è proprio l'elemento dell'immaginazione, che dobbiamo smetterla di pensare come fuga dalla realtà, perché per Leopardi l'immaginazione è proprio lo strumento di confronto aspro con la realtà. Sempre ci concentriamo nell'infinito, sull'infinito, ma non dobbiamo dimenticarci che la poesia si apre definendo come sempre caro non solo il colle, ma la siepe. La siepe. Cioè, è il limite. E che cosa vuole un giovane se non avere limiti nell'età in cui, appunto, si rende conto che è venuto a portare qualche cosa su questa terra e non vuole limiti? Leopardi cosa gli insegna? Dice: guarda che proprio il limite è ciò che spinge l'immaginazione a cercare oltre. Cioè lui si rende conto che noi siamo dei cercatori di felicità a cui questa felicità scappa sempre, ma non ti dice perché allora lascia perdere questa ricerca, dice: cerca proprio in quell'elemento limitante la felicità. Che è un'immagine bellissima, secondo me. E tra l'altro tu poni anche l'attenzione in questo libro sulla fragilità. Dici che, insomma, nell'età contemporanea, nell'epoca contemporanea, siamo in un'epoca in cui dobbiamo essere perfetti fisicamente, esteticamente, eccetera. E qualsiasi forma di fragilità viene stigmatizzata. Leopardi invece che cosa ci insegna in questo senso? Ma tu prima dicevi giustamente che gli alunni reagiscono quando sentono sfigato il suo nome. Esattamente. Perché? Perché noi abbiamo bisogno di etichettare, di allontanare ciò di cui abbiamo più paura. Ma i ragazzi sanno benissimo di avere quelle stesse fragilità, quelle stesse debolezze che aveva Leopardi. Allora io parlo della fragilità in questo libro come un elemento di forza, una fragilità che è forza. Leopardi chiude la sua carriera poetica quando ormai era diventato quasi cieco e i versi li doveva dettare al suo amico Ranieri, con questa immagine potentissima della ginestra, che è questo fiore che fiorisce nel deserto, che lui definisce frale, quindi riprende quella condizione di cui fragilità abbiamo parlato prima, e dice che nonostante il deserto, questa landa desolata in cui cresce, lo consola e lo profuma. Quindi c'è questa idea di che cosa? Che la fragilità non è un alibi per fuggire dalla vita, ma è l'occasione per donarsi all'interno di quella vita e cercare sempre bellezza. Leopardi, quello che ha creato una religione della bellezza, che significa porre qualche cosa nel mondo anche quando il mondo ti sta urlando contro che non c'è nulla da fare. Questa è una forza fragile, una fragilità forte, che a me entusiasma e che credo serva a questo nostro tempo. Tu lo definisci a un certo punto anche cercatore di bellezza. Sì, predatore di felicità e cercatore di bellezza. Ecco, naturalmente questo libro fa venire voglia di riprendere a leggere Leopardi, o di leggerlo se non lo si è ancora letto. Che cosa consiglieresti a una persona, magari a un ragazzo ma anche ad un adulto, che vuole iniziare con una poesia, con un'opera di Leopardi? Andiamo sul classico infinito o hai un consiglio più originale? Ma domanda io, da 100 milioni. No, direi di per capire qual è la forza di quest'uomo, io farei leggere A se stesso, che è una poesia in cui lui si rivolge al cuore deluso per l'ennesima delusione amorosa e lo supplica di smetterla di cercare la felicità. Però lo dice in una poesia e io credo che ciascuno di noi si è trovato in questa condizione in cui ancora una volta la vita lo ha deluso e ha pensato di dover ritirarsi, di dover chiudere. Invece Leopardi, mentre dice al cuore non val cosa nessuna i moti tuoi, quindi niente su questa terra ti potrà dare la felicità, in realtà sta scrivendo una poesia su questa, quindi ancora una volta risarcisce, ripara, cura con la bellezza quella ferita che il cuore si porta addosso. E poi purtroppo il trascuratissimo Zibaldone, in cui entriamo un po' nel cuore, nel laboratorio di Leopardi. Io cito solo uno degli ultimi pensieri, visto che insomma sono tre volumi piuttosto ponderosi, non direi a un ragazzo di cominciare da lì, ma cominciare da uno degli ultimi pensieri di Leopardi, in cui lui dice: verrà un giorno in cui io rileggerò le poesie che ho scritto con la gioia di aver fatto qualcosa di bello al mondo, conosciuto che sia o no per tale da altrui. Questo è una, credo, un messaggio di una forza grandiosa proprio per questo nostro tempo. Un ragazzo, un uomo scorticato dalla vita, che sa di aver fatto qualcosa di bello al mondo e non gli interessa che sia stato riconosciuto in vita, perché sa di aver fatto una cosa bella. Insomma, questo libro di Alessandro D'Avenia, L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, pubblicato da Mondadori, ci aiuta a riflettere su noi stessi. C'è un capitolo molto bello che si chiama L'adolescenza non è una malattia e ci fa riflettere su noi stessi, ma ci fa anche cambiare un po' idea su Leopardi. Insomma, non più il pessimismo leopardiano, ma direi la resilienza leopardiana, cioè la forza di combattere le difficoltà per poi arrivare alla bellezza. È proprio questo, la ginestra o fiore del deserto. La ginestra non fiorisce nel deserto, fiorisce, Leopardi sta parlando della lava, delle pendici, del Vesuvio, e quindi perché definirlo il fiore del deserto? Proprio per questa resilienza di cui parli tu. Il deserto non è, lo ripeto ancora una volta, un alibi per non fiorire, ma è l'occasione per consolare questo deserto che non ha altro se non questa pietra che tutto copre. E lì definisce proprio questo paesaggio a fianco alla ginestra, dopo aver scritto, secondo me, il notturno più bello della letteratura italiana, in cui c'è quel purissimo azzurro che tutti ci ricordiamo, di cui la ginestra non è altro che il controcanto. Cioè, di fronte a questo cielo stellato in cui lui ancora una volta, quasi cieco, cerca la luce e dice: no, la luce è qui accanto a me, in questo fiore debolissimo, fragilissimo, ma fortissimo. Con gli steli della ginestra, ai tempi di Leopardi, si intrecciavano delle corde fortissime, proprio perché, crescendo in un ambiente così difficile, aveva questa tessitura molto, molto forte. Ecco, questo è quello che Leopardi ci consegna. Grazie ad Alessandro D'Avenia. Mentre voi andate a recuperare tutte le poesie di Leopardi, noi facciamo una breve pausa e poi torneremo ancora a parlare di libri. Il cacciatore di libri. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Si intitola Non aspettare la notte, il nuovo romanzo di Valentina D'Urbano pubblicato da Longanesi. Valentina D'Urbano era diventata famosa con il romanzo Il rumore dei tuoi passi, che aveva avuto veramente un grande successo, soprattutto fra i ragazzi, ma anche insomma fra gli adulti, diciamo, fra le persone adulte. In quel caso si raccontava una storia d'amore molto contrastato nella periferia romana. In questo caso c'è sia una storia d'amore, ma i problemi sono altri. Allora, i protagonisti sono Angelica e Tommaso. La prima scena di questo romanzo è una scena forte, fortissima, perché Angelica viene chiamata quasi nel cuore della notte dalla madre, che si capisce ha dei problemi mentali, e dice: guarda, esci con me, eccetera. Poi la porta a fare un giro in macchina. E che cosa succede? Sì, succede che appunto la madre chiede ad Angelica di uscire con lei alle 3 di notte. E la porta a fare un giro in macchina. Angelica non sa che quella notte sua madre ha deciso di suicidarsi e di portarla con sé. Hanno questo incidente gravissimo in cui appunto la madre perde la vita, mentre Angelica sopravvive. Si porta dietro per anni i lasciti di questo incidente. Angelica è coperta di cicatrici dalla testa ai piedi. È sopravvissuta, ma è rimasta traumatizzata, segnata, sia nel corpo con le cicatrici che nell'anima. Ecco, questo incidente avviene quando lei ha circa 13 anni, insomma è adolescente, quindi poi è costretta a vivere la sua adolescenza e poi la sua giovinezza, perché poi seguiamo la storia quando i protagonisti hanno circa 20 anni, mettiamola così, e è chiaramente un trauma fortissimo, perché nel momento in cui si guarda allo specchio non riconosce se stessa, si vergogna di andare e di far vedere queste cicatrici, quindi indossa un cappello, si veste in modo da coprire. Che tipo di rapporti ha con i suoi amici, con i suoi coetanei e con le altre persone? I rapporti di Angelica con i suoi coetanei sono inesistenti, perché Angelica si è chiusa in casa, non ha amici, non vede nessuno, esce solo esclusivamente per dare gli esami all'università. Gli unici rapporti che ha sono quelli con suo padre e con la domestica che vive in casa loro. E queste due persone comunque cercano sempre di proteggerla dagli altri, quindi non è mai neanche spinta ad andare fuori a cercare di conoscere gente o di fare nuove amicizie. Vive come una reclusa. A un certo punto nella storia naturalmente c'è un incontro fra Angelica e Tommaso, ma anche Tommaso ha i suoi problemi belli seri, perché Tommaso ha una malattia degenerativa per la quale sta per perdere la vista, cioè perderà lentamente la vista, e sua sorella gli ha regalato una macchina fotografica, una Polaroid, per scattare le foto dei momenti più belli che vive, per poterli rivedere magari quando è triste, però quando ha ancora la vista per vedere. Che carattere ha Tommaso? Come vive invece Tommaso la sua malattia? Allora, a differenza di Angelica, che comunque è una persona molto timida, scontrosa, ha paura di tutti e non si fida, Tommaso è l'esatto opposto. Tommaso è una persona che, nonostante la gravità della sua malattia, riesce a vedere il bello della sua vita. È allegro, è solare, non gliene importa niente. Ogni tanto pensa al fatto che un giorno perderà la vista, ma si gode il momento. E chiaramente questa sua allegria, questa sua solarità si scontra con la ritrosia di Angelica. Ecco, si scontra, ma poi si incontra anche, perché naturalmente insomma i due ragazzi in qualche modo vivranno una relazione, mettiamola così. Adesso non scendiamo troppo nei particolari per non togliere la bellezza della lettura e la curiosità per i lettori. Quando ho visto un po' come andava avanti, insomma, questo tuo romanzo, ovviamente mi sono venuti in mente tanti altri romanzi che sono stati di moda negli ultimi tempi. Non so, penso a Colpa delle stelle, dove c'erano appunto i ragazzi malati. Insomma, la questione della malattia o comunque dell'essere sfigurati, nel caso di Angelica, è un tema che la narrativa ha trattato già diverse volte. Perché tu hai deciso quindi di attribuire questi due problematiche ai tuoi protagonisti? A che cosa ti servivano nel romanzo? Allora, innanzitutto a me piace parlare di personaggi borderline o comunque con gravi problemi. Poi io in questo romanzo in realtà volevo raccontare la purezza dell'amore, che non si basa sull'aspetto fisico. Ci sono, mi vengono in mente, alcuni romanzi che appunto per cui i due protagonisti bellissimi si vedono, certo, e si innamorano perché sono bellissimi. No. Tommaso, Angelica non la vede e Angelica non vuole essere vista, quindi respinge Tommaso: vattene, non ti voglio vedere, non mi devi guardare. Perciò loro due si innamorano per altre cose. Angelica si innamora della vitalità di Tommaso e Tommaso si innamora della paura di Angelica. Lui sente, la vuole proteggere, capisce che comunque è una persona che non sa niente della vita, non sa vivere, e vuole proteggerla e tirarla fuori. Questo è un romanzo sì d'amore, ma mi fa pensare anche a un romanzo proprio sulla resilienza, cioè sulla capacità proprio che le persone hanno di reagire agli ostacoli della vita e a trasformarli magari anche in qualcosa di positivo. C'era un tuo intento in questo senso? Sì, assolutamente sì, anche perché appunto i miei due protagonisti, Tommaso e Angelica, fanno un percorso. E all'inizio ovviamente si respingono perché sono due fragilità che si incontrano come il pezzo di un puzzle. Devono smussare i loro angoli prima di finire insieme, però alla fine in qualche modo comunque trovano un equilibrio, quindi ecco, sicuramente quello che volevo dire io era che anche nel momento più buio della vita, Angelica lo vive da 7 anni dal suicidio della madre, si può comunque uscire fuori. Nel tuo primo romanzo, Il rumore dei tuoi passi, avevamo invece un protagonista maschile, Alfredo, che aveva un padre molto violento, che si ubriacava, poi lui stesso finiva per drogarsi, insomma, alla morte del padre e così via. Altro personaggio difficile era Beatrice, detta Bea. In quel caso la storia si svolgeva ai margini di una città immaginaria, appunto potrebbe essere Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città. Tu dicevi prima che ti piace indagare la psicologia e descrivere personaggi borderline. Che cos'è che ti affascina nella personalità borderline dei personaggi che tu stessa inventi e quindi sei tu a mettere, come dire, fra le loro caratteristiche qualcosa che non va? Sì, io comunque mi diverto molto poi a metterli davanti a situazioni molto particolari, molto difficili e vedere come reagiscono. La cosa che mi affascina molto è la ricerca di questi personaggi, lo studio soprattutto, perché quando metti in scena comunque personaggi così difficili devi stargli dietro, devi vivere quasi con loro, e mi piace molto perché è una sorta di spersonalizzazione di me stessa per andare a vivere e diventare altre persone, altre vite che non vivrò mai. Nel romanzo Non aspettare la notte, gran parte della storia si svolge negli anni 90, insomma l'incidente naturalmente è avvenuto prima. Tu spesso nei libri ambienti le tue storie fra gli anni 80 e gli anni 90, non diciamo nel tuo momento contemporaneo, tu tra l'altro sei una giovanissima scrittrice, quindi insomma ti risulterebbe anche più semplice forse ambientarli ora. Perché, cos'è, una forma di nostalgia? In parte sì, è una forma di nostalgia per la mia infanzia, per quello che ho vissuto comunque, ma dall'altra parte è una cosa un po' più tecnica. Io ambiento le mie storie negli anni precedenti al 2000 perché all'epoca non c'era la tecnologia, noi avevamo cellulari, noi avevamo social network, e mi sembra, quando racconto una storia, mi sembra molto più facile, molto più immediato, anche per le emozioni, per i sentimenti, che non ci sia appunto un social network o non ci siano gli sms, un WhatsApp e così via. Esatto. Ma i personaggi devono parlare faccia a faccia. Io dico sempre, i miei personaggi ci devono mettere la faccia. E senza tecnologia devi per forza metterci la faccia, non ti puoi nascondere dietro un messaggio o comunque dietro un post su un social. E invece Valentina D'Urbano come persona, oltre che come scrittrice, che rapporto ha con i social, col web e così via? Ma io in realtà per la mia carriera di scrittrice devo ringraziare il web, perché io sono nata da lì, ho partecipato a un concorso su internet, il torneo letterario dello scrittore, e quindi ecco, ho un rapporto decisamente buono con i social, sono molto attiva, ho un buon dialogo anche con i miei lettori, quindi mi scrivono, rispondo, mi piace perché è una cosa che mi tiene in contatto con le persone che leggono i miei libri. Tu però non ti eri autopubblicata, tu avevi partecipato a questo concorso o avevi fatto anche del self-publishing? No, quando nel 2012 il self-publishing ancora non era così in voga come negli ultimi tempi. Quindi no, io ho partecipato semplicemente a questo concorso, non mi ero mai autopubblicata, non sapevo neanche che si potesse fare. Questa è la dimostrazione, insomma, che si può arrivare a pubblicare un libro con una casa editrice. Non è necessario, ecco, passare necessariamente dal self-publishing. Tu prima mi raccontavi off records che ci hai messo 5 anni per scrivere questo romanzo. Perché così tanto tempo? Che cos'è che hai dovuto far maturare dentro di te? Allora, questo romanzo io ho provato a scriverlo dopo Il rumore dei suoi passi, poi ho provato di nuovo dopo Acqua nera. E ho provato di nuovo dopo Quella vita che ci manca, quindi ho fatto vari tentativi. Lo avevo in testa, volevo scrivere questa storia, ma c'era qualcosa che me lo impediva. I miei personaggi all'inizio mi risultavano odiosi, non li potevo sopportare, non riuscivo a scrivere di loro perché io stessa li odiavo. Poi li odiavi? Cosa ti dava fastidio? Perché non erano ovviamente come sono adesso. Ah, ecco. Erano molto più, forse ero probabilmente ero anche meno matura io. Quindi questo è un romanzo che ha dovuto fare il suo tempo, ha dovuto macerare, diciamo così, dentro di me per arrivare poi alla forma finale. Forse anche perché raccontare della, di alcune forme di disabilità non è una cosa semplicissima se non si prova a vivere in un determinato modo. No, perché si rischia di scadere nel pietismo. E io non faccio mai sconti ai miei personaggi, non li tratto mai con condiscendenza o appunto con pietà. Né Angelica né Tommaso, è vero, hanno sicuramente delle disabilità, però sono persone, sono come noi, e ci è voluto tanto per me per riuscire a mettere in scena questa storia appunto senza scadere in alcuni sentimenti che a me non piacevano. Tu hai scelto due forme di disabilità che si, come dire, incastrano alla perfezione. Angelica è coperta di cicatrici e non vuole essere vista. Tommaso lentamente perderà la vista e non potrà vedere Angelica. Sembra proprio quasi studiata a tavolino. Com'è che ti è venuta in mente? Ma in realtà all'inizio non avevo pensato a Tommaso in quel modo. Poi mi è stata regalata una Polaroid. E lì ho cominciato a pensare a questa Polaroid, al significato che aveva comunque... Anche negli anni 90 una fotografia aveva un significato diverso rispetto a oggi. Oggi facciamo fotografia a qualunque cosa, no? Mentre prima le fotografie te le tenevi belle care perché avevi il rullino. E ho pensato a questo, mi è venuto proprio quasi un flash di questo ragazzo appunto che andava in giro a fotografare quello che non vedeva in quel momento per riguardarselo dopo quando recuperava la vista. E una delle cose che fotografava era appunto Angelica, che non voleva essere vista. E secondo me era una storia molto interessante da raccontare di questi due ragazzi che appunto sono diversi, hanno due problemi che sono quasi incompatibili, però alla fine grazie alla loro forza comunque riescono a unirsi, a stare insieme. Nel libro Il rumore dei tuoi passi era la periferia, diciamo, a invadere la vita dei protagonisti e a renderla borderline, quindi era l'ambiente in cui vivevano. In questo caso non è tanto l'ambiente, è qualcosa che gli stessi personaggi provano dentro per gli accadimenti della vita. Sì, non è più il luogo in cui nascono che li trasforma, ma è il loro passato che li trasforma, cioè quindi le cose che gli sono accadute, i legami familiari, soprattutto nel caso di Angelica, insomma, che ha un tipo di madre abbastanza complicata. Beh, la fortezza è stato sicuramente il quartiere degradato, appunto, di cui io parlo nei miei romanzi. Dove avevi ambientato, appunto, esatto, i tuoi romanzi. È stato sicuramente un punto di partenza molto importante, anche perché era il quartiere dove sono nata. Quindi ho seguito la prima regola di ogni aspirante scrittore, scrivi di quello che sai, di quello che vedi. Però ecco, adesso credo di aver restituito tutto al luogo in cui sono nata, ho preso tutto quello che potevo e ho restituito tutto, quindi è una fine per un nuovo inizio appunto. Ecco, ci sono scrittori che creano personaggi seriali, tu hai creato un'ambientazione invece seriale, a questo punto pensi di averla abbandonata definitivamente, appunto hai detto tutto di quel luogo lì? Per ora sì, però poi non si può mai sapere, no? Le storie nascono così, nascono magari da un'intuizione, da un'immagine, anche da una canzone. Per il momento io mi sento di aver chiuso la mia parte della fortezza, però non si può mai dire. Grazie allora Valentina D'Urbano, ora in libreria con Non aspettare la notte, pubblicato da Longanesi. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. Ed è tutto anche per questa puntata del Cacciatore di Libri. Vi ricordo che in questo periodo delle feste gli appuntamenti con i consigli sui libri, ma soprattutto con le interviste agli scrittori, si moltiplicano. Innanzitutto ci saranno due speciali. Allora, uno speciale, diciamo, su quelli che sono stati i libri del 2016 e che andrà in onda il giorno di Natale, quindi il 25 dicembre all'ora del tè alle 17, e poi in replica il 26 alle 11 del mattino. Poi faremo anche uno speciale noir, che lo sappiamo è uno dei generi più apprezzati dagli italiani, che andrà in onda la sera di Capodanno, quindi il 31 dicembre alle 22 e il 1 gennaio alle 18. E vi ricordo anche che a partire dal 26 dicembre, per un paio di settimane, ci sarà un appuntamento speciale del Cacciatore di Libri tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 6:10 del mattino. Insomma, se avete paura comunque di perdere tutti questi appuntamenti, vi ricordo che c'è sempre il podcast a disposizione, le puntate d'archivio su radio24.it. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, una buona lettura a tutti e buone feste da Alessandra Tedesco.